Radio 24 Reportage. Città del futuro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questo appuntamento in cui andremo in visita delle città del futuro. Cosa intendiamo? Intendiamo non solo quelle città appositamente realizzate per essere più vivibili, ecosostenibili o intelligenti, secondo i più moderni concetti di vita urbana, ma anche delle città tradizionali come le nostre, che stanno subendo o dovrebbero subire diverse trasformazioni, perché la popolazione mondiale aumenta, perché le materie prime e l'ambiente naturale non sono risorse infinite, perché cambiano i modelli e gli strumenti di lavoro. Ne parleremo con esperti e testimoni di questi cambiamenti. La Cina è uno dei primi paesi a cui si pensa quando si parla di città del futuro, perché in quel paese popolatissimo, grandissimo e sempre più ricco, si sta investendo davvero nella realizzazione di nuove città. Ci sono molti studi di architettura italiani al lavoro in Cina, tra questi anche quello di Pierpaolo Maggiora, che insieme a 50 colleghi dello studio Arca di Torino è al lavoro nell'isola di Chaofeidian, 220 km da Pechino. Qui sorgerà la prima eco-city del terzo millennio, come è stata definita dal governo cinese. Ospiterà circa 2 milioni e mezzo di abitanti che grazie all'alta velocità raggiungeranno Pechino in appena 38 minuti. Il progetto è il primo progetto, proprio primo, messo al primo posto nel piano quinquennale sulle trasformazioni territoriali, perché è la trasformazione a cui la Cina attribuisce più importanza in questi 5 anni. Perché? Perché deve diventare una operazione che si definisce attraverso diversi livelli di simbolicità. Per i cinesi dei 6 simboli sono molto importanti. Ha un simbolo interno, perché è che comunichi il passaggio da un millennio a un nuovo millennio, infatti la richiesta era la prima città del terzo millennio. 2 simboleggi per la Cina i termini della proiezione verso l'esterno, infatti è sulla direttrice Pechino, Seul, Tokyo, proprio se le congiunge con una riga. Sono messe su un segmento, e quindi è da Pechino, è la Pechino sull'acqua per intenderci, è la Pechino dell'innovazione, è la Pechino del futuro. E questa simbologia di cui lei mi ha parlato, anche per lei come straniero, non è mica stato facile comprendere anche tutto questo desiderio. Ma guardi che è molto desiderio. Meno complicato, è molto meno complicato di quanto non si pensi, nel senso che al di là del fatto che ovviamente la Cina è un fenomeno talmente importante da oltre, almeno per noi, da quando si è aperta, per cui insomma non trascurare il mondo cinese credo che sia un errore imperdonabile per un uomo del nostro tempo. C'è da vedere l'arte orientale in modo completamente diverso rispetto a come la interpretiamo per un occidentale dal punto di vista proprio storico. Cioè noi non interpretiamo i punti forti, sono i momenti di grande rottura. L'orientale è esattamente rovescio, cioè l'orientale privilegia la continuità di lavoro sulla quella che noi impropriamente chiamiamo, sì, tradizione, ma però non è conservazione per loro è proprio veramente un lavoro di, anzi più si va avanti e più è difficile la ricerca, perché bisogna continuamente migliorare il punto a cui si è arrivati, e di qui loro hanno una grande facilità nel copiare, noi diciamo copiare, ma sbagliamo, i prototipi occidentali, perché loro hanno questo, nel concetto, noi privilegiamo la rivoluzione, loro privilegiano invece la continuità, per cui quando si dice, ah ma i cinesi, i giapponesi, no, sono sicuramente dei marziani, ma sulle premesse, quando mi hanno invitato a partecipare al concorso, cioè, noi vogliamo qualcosa che sia un progetto di attualità assoluta, anche tra 200, 300, 400, 500 anni, cioè è anche un'ingenuità, letto in un certo modo, letto nella logica orientale ha un suo senso importante, deve comunicare al mondo, ad esempio, che la Cina affronta il tema della sostenibilità. Questo le volevo chiedere, infatti, se era stato una richiesta specifica. È l'EcoCity, è il simbolo dell'EcoCity, saranno intorno a una 15 l'EcoCity. E questi sono, diciamo, degli innesti, un po' innesti di tipo botanico proprio, di corpi sani vuol dire corpi progettati in termini di armonia progettuale, e l'armonia progettuale coincide con il nostro termine di sostenibilità, ma è molto più ampia, oltre alla dimensione che è la seconda antropologica e culturale, c'è la dimensione terza, sociogestionale, quarto sicuramente quello architettonico e urbanistico, quinto quello economico-finanziario. E quindi di qui si inaugura, questo deve essere anche il prototipo per le altre 15 aree megalopolitane da rimettere a posto, che devono essere trasformate in termini di, da un lato, rigeneratrici dei sistemi megalopolitani, dall'altra parte contenere in sé i contenuti dell'armonia progettuale, quindi la sostenibilità generale e quindi EcoCity. Oltre al progetto di Pierpaolo Maggiora Ciao Feidian, molto si è parlato anche di quello dello studio britannico Foster negli Emirati Arabi, a Masdar. Masdar sarà la prima città a zero emissioni e dovrebbe sorgere entro pochi anni. Gerard Evenden, dello studio Foster, ci parla del progetto. This will be the first zero carbon, zero waste. Questa sarà la prima città ad emissione zero e zero rifiuti, totalmente alimentata da fonti rinnovabili. Nelle proporzioni della costruzione di un palazzo si devono pianificare l'orientamento, i sistemi passivi e attivi. Quando la scala è invece quella di una città di 6 km quadrati, per questo tipo di sviluppo dobbiamo cominciare a pensare a tutt'altre dimensioni e proporzioni. Dobbiamo aggiungere poi la rigidità delle condizioni climatiche di Abu Dhabi e il tipo di adattamento al clima. Ovviamente abbiamo una fantastica opportunità di usare energia solare. Interessante è il fatto che, pur essendo su una zona costiera, l'eolico può fornire solo un 1% del totale dell'energia sostenibile che vogliamo produrre. I rifiuti sono diventati un fattore di importanza fondamentale nel processo di approvvigionamento di energia rinnovabile. Se tutti questi fattori non possono essere veramente considerati nel progetto di un singolo palazzo, nella scala di un'intera città, invece, possiamo veramente cominciare a capire e risolvere queste questioni energetiche. Anche qui, quindi, una rivoluzione in particolare energetica del concetto tradizionale di città. Una rivoluzione che, secondo Lorenzo Matteoli, docente e architetto, in passato anche assessore a Torino, non può non avvenire. Forse questa è la rivoluzione più importante che sia avvenuta nello sviluppo del genere umano, cioè il passaggio dal petrolio alle fonti alternative è una rivoluzione che impiegherà 3 o 4 generazioni per svolgersi, con un impegno finanziario e economico enorme. Deve avvenire perché l'alternativa è la catastrofe, cioè questa rivoluzione che impiegherà e impegnerà, è una sfida che impegna 3 generazioni, supponiamo, è una rivoluzione le cui basi vanno poste adesso. Siamo noi che dobbiamo innescarla e siamo noi che nei prossimi 10 anni dobbiamo stabilire se quello che ci sta di fronte è una lenta catastrofe irreversibile oppure un nuovo rinascimento del pianeta. Bisogna anche dire che non esiste programma politico che possa sopravvivere se non assume il progetto della città futura in modo consistente, come impegno fondamentale. È vero che la città del futuro ha bisogno dell'impegno politico, ma è anche vero che qualunque programma di governo che ignori questa rivoluzione in essere non ha futuro, non ha vita, non esiste. Lei ha parlato poco fa di fonti energetiche, cos'altro ci deve essere di nuovo nella città del futuro? Il modo di convertirle, la cultura che le converte. Molto spesso si fa confusione fra quello che è il controllo dello spreco e il risparmio. Controllare lo spreco vuol dire operare sulle tecnologie senza modificare le abitudini e il modello culturale di uso. Oggi in pensione, Matteoli vive in Australia o Canada, ma non dimentica l'Italia, tanto che cura il congresso City Futures, i futuri delle città in pratica, in programma all'auditorium della Fiera di Milano il 4 e 5 febbraio prossimi. Altro tipo di nuove città sono quelle che stanno sorgendo sulle ceneri, sulle macerie, per meglio dire, delle vecchie città, come Astana in Kazakhstan. Marco Magrini, collega del Sole 24 Ore, l'ha visitata e allora noi gli abbiamo chiesto di descrivercela. L'impressione lascia piuttosto a bocca aperta, perché Astana è una capitale interamente artificiale, nel senso che fino al 91 la capitale del Kazakhstan era Almaty, al confine col Kirghizistan, e il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, decide di spostare la capitale a Astana, anzi Astana come dicono nel luogo, per un sacco di motivi, il principale dei quali è la possibilità di allargare indefinitamente la città, cosa che al mattino non era possibile perché era circondata dalle montagne. Invece Astana è circondata dalla steppa e dal niente, e quindi si può ingrandire a dismisura. Costruiscono che cosa? Grattacieli, piramidi, leggo cose impressionanti. Sì, piramidi no, moschee, grattacieli assolutamente, ma probabilmente la nuova Astana è la parte dove ci sono i palazzi della politica e del potere. Allora, posso raccontarti della piazza più grande di Astana, che a occhio e croce è più grande di Tiananmen o giù di lì. Dove da un lato c'è uno scintillante lo scintillante Ministero degli Esteri, dall'altra parte un grandioso Ministero degli Interni, dall'altra parte quello delle Finanze, nel mezzo una torre dorata altissima che si può visitare con un ascensore, dal quale si vede giusto appunto che la steppa circonda la città, e sull'ultimo lato della piazza ci sono due enormi torri dorate che portano su un viale con un giardino meraviglioso, una scalinata e ovviamente il palazzo del presidente. E c'è in costruzione questo grandioso palazzo che ha anche un nome, Khan Shatiri, disegnato da Norman Foster. Anzi, consiglio a chiunque interessato ad andare sul sito dello studio di Norman Foster per vederlo, perché è veramente una cosa spettacolare. Non ho nemmeno le parole per descriverlo in termini architettonici, ma diciamo è una grande torre ellittica alta 150 metri, interamente di vetro, dove dentro ci sono cinema, una spiaggia riscaldata, insomma un ambiente modificato che trasforma questo centro di divertimenti, voluto anche questo ovviamente da Nazarbayev, in un'atmosfera modificata per una capitale artificiale. Ora facciamo una piccola pausa e poi proseguiamo.